provo a sentire leggera la carne delle tue parole. Continuavo a sentirle vicine, toccarmi al di là del cuore. Adesso che vai senza nome, nell'eco del mio non tornare. Ricordi una sola stagione, di vento, di foglie, di rame. Semino il germe confuso della tua mediocrità. Lo vedo nascere solo franzetti rabbiosi che lui amerà. Continuavo a sentire natura nei fianchi del grembo terrestre ed urlavo fra sguardi indiscreti il nome di chi non ha voce. Vertigine di una notte, le nuvole sempre più rosse. Le stelle non cercano ragione, tradiscono la luce del sole. L'immacolato possesso che abbiamo ci lascia il cuore a metà. Vergine dei desideri, proclami del vento che viene che va. Na na na na.